La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 26 settembre 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E questa settimana parleremo di un argomento che abbiamo già trattato più volte. Parleremo fondamentalmente di pianeti extrasolari e parleremo di una scoperta, di un'ultima scoperta, del primo pianeta extrasolare in transito trovato all'esterno del nostro sistema. E ne parleremo con la dottoressa Giovanna Tinetti dell'University College of London. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Dottoressa, all'inizio noi abbiamo le solite classiche 100 parole iniziali per introdurre la puntata. Quindi lei ha 100 parole e quindi le lascio la parola. Ma ne userò anche meno. Un pianeta extrasolare è un pianeta che orbita una stella diversa dal nostro Sole. Dottoressa, allora ci andiamo a sentire un piccolo pezzo musicale, poi torneremo in studio e quando saremo tornati in studio cominceremo davvero a parlare di questa scoperta. Allora, dottoressa Tinetti, siamo ritornati in studio e quindi cominciamo a parlare dell'argomento. Prima di tutto la domanda iniziale: che tipo di interesse ha l'astronomia ad andare a cercare pianeti esterni al nostro sistema? Ma è un'area di ricerca piuttosto giovane, perché il primo pianeta extrasolare che orbita una stella, diciamo, si chiama Main Sequence, cioè una stella tipo il nostro Sole, è stato scoperto nel 1995 dall'equipe dell'Osservatorio di Ginevra di Maiore di Queloz, quindi una ricerca molto recente. Però è una ricerca che ha prodotto moltissimi risultati, perché dal 95 ad oggi più di 370 pianeti extrasolari sono stati scoperti, quindi è una ricerca che va velocissima. Senta dottoressa, dal punto di vista scientifico, quindi dal punto di vista delle rilevazioni, so che ci sono vari metodi per andare a scovare e a stanare questi pianeti extrasolari. Quindi effettivamente come si opera per andare a cercare un pianeta che orbita attorno ad una stella esterna al nostro Sole? Ma dunque, l'interesse prima di tutto è di capire se il sistema solare in cui noi abitiamo, in cui la Terra è localizzata, è un qualcosa di unico nell'universo o molto comune. Oggi già sappiamo la risposta, sicuramente non è unico, ci sono molti sistemi stellari che infatti sono osservati dagli scienziati oggi, e in particolare riusciamo già a individuare pianeti all'interno di questi sistemi stellari. I pianeti ovviamente che stiamo osservando sono normalmente dei pianeti soprattutto giganti, quindi un po' come il nostro Giove, molto spesso molto vicino alla stella, quindi pianeti molto caldi perché sono i più facili da rilevare. Però le tecniche di rilevazione hanno migliorato tantissimo negli ultimi anni e quindi si è partiti un po' di lì, ma ci sono già moltissimi oggetti estremamente più piccoli, chiamiamoli cugini della Terra, che sono stati rilevati molto recentemente. Senta dottoressa, qual è il metodo più utilizzato effettivamente per andare a cercare un esopianeta? Ma oggi ce ne sono alcuni e hanno tutti un po' delle caratteristiche di complementarità, quindi non escluderei nessuno dal punto di vista dell'utilità, ecco. Quello che sta facendo più successo, quindi che ne ha rilevati di più, sono le velocità radiali. E l'idea è che nelle velocità radiali, siccome quando c'è un pianeta, la stella, il sistema stella-pianeta, ruotano un po' intorno al baricentro del sistema, e quindi è vero che il pianeta noi ruota intorno alla stella, però in qualche modo, anche se in piccolissima parte, anche la stella si muove per la presenza del pianeta. Allora questo piccolo movimento può essere rilevato. Nel caso delle velocità radiali si nota un po' la perturbazione della luce che arriva all'osservatore grazie a quello che si chiama effetto Doppler, quindi quando la stella si allontana si vede un effetto più verso il rosso, quindi la luce un po' si sposta verso il rosso, quando la stella si avvicina all'osservatore si nota una perturbazione un po' verso il blu, e quindi misurando queste perturbazioni uno riesce a rilevare la massa del pianeta. Tecnica simile alle velocità radiali, nel senso che utilizza comunque questo spostamento della stella dovuto alla presenza del pianeta, è l'astrometria. L'astrometria però misura proprio i piccoli spostamenti della stella, quindi è leggermente diverso, però si basa sempre su questo spostamento stellare. Poi abbiamo la microlensing, che è invece un metodo che vede oggetti molto lontani, quindi mentre per le velocità radiali l'astrometria si tende a osservare comunque stelle relativamente vicine al nostro Sole, le microlensing invece guardano un po' più verso il centro della nostra galassia. E la tecnica che usano è quasi fantascientifica, nel senso che usano un po' il fatto che una stella di passaggio possa fare da lente gravitazionale, quindi ingrandire in qualche modo per l'osservatore il sistema stella-pianeta, e così vengono rilevati questi pianeti. I pianeti rilevati da microlensing sono generalmente degli oggetti molto freddi, relativamente distanti dalla stella, quindi in questo si differenziano un po' dalle altre due tecniche. E poi direi per finire, no, ce ne sono ancora due. Abbiamo il transito è una tecnica che utilizza il fatto che quando c'è un pianeta che rispetto alla linea di osservazione passa di fronte alla stella, quindi c'è un momento della sua orbita in cui sta tra la stella e l'osservatore, in questo passaggio parte della luce stellare viene diminuita, e misurando questa diminuzione uno riesce a risalire al raggio del pianeta. Per finire abbiamo le rilevazioni diretta, dove si cerca di mascherare la presenza stellare e focalizzarsi sulla luce planetaria. Questa detta così ovviamente è molto bello, però è una tecnica comunque abbastanza difficile da realizzare. Sarà un po' la nostra tecnica del futuro, però ecco, oggi sicuramente dà forse un po' meno risultati di altri. Senta dottoressa, lei ha appena descritto una serie di metodi per andare a scovare questi esopianeti, ma effettivamente la cosa che mi interessava sapere è che tipo di criterio usa l'astronomo per decidere quale criterio utilizzare, quindi La domanda è molto semplice: tira i dati per decidere questo metodo oppure c'è un criterio che segue? Ma dunque, hanno ovviamente diverse sensibilità questi metodi ed è il loro bello perché in qualche modo possono guardare zone diverse di cielo o pianeti e stelle di caratteristiche diverse, quindi benissimo che sia così, ecco. Diciamo tutti i metodi, salvo il Michael Hansing, sono molto sensibili a stelle relativamente vicine. Più sono vicine, più sono brillanti e più questi metodi funzionano, perché è molto più facile osservarli. Michael Hansing invece è peculiare proprio perché invece ha bisogno di guardare una zona stellare molto densa, e quindi per quello guarda invece distante verso il centro della galassia. E quando uno vuole semplicemente rilevare pianeti, quindi non in qualche modo caratterizzarli, quindi spenderci molte ore di telescopio per vedere un po' cosa succede sull'atmosfera, quali sono le loro caratteristiche, normalmente si fa un po' una survey, cioè quindi si monitora un po' a tappeto una certa zona del cielo, più o meno ristretta, dipende poi un po' dal tipo di missione o dal tipo di osservazione. E in questo monitoraggio, ovviamente, a seconda della tecnica, ci si fisserà un certo periodo di tempo sulla stella per capire se è un oggetto che può potenzialmente avere pianeti o no. Senta, dottoressa, una cosa che andremo poi a esplorare meglio nella seconda parte della trasmissione sarà proprio la scoperta di questo esopianeta nuovo, di questo Corot 7b, che effettivamente è il primo pianeta roccioso in transito scoperto all'esterno del nostro sistema. La domanda però che le voglio fare è questa: perché fino ad ora sono stati scoperti solamente pianeti grossi, di grossa taglia, e non pianeti piccoli, quindi pianeti gioviani e non pianeti tra virgolette terrestri? Beh, allora, i pianeti giganti hanno masse molto grandi e quindi, ad esempio, per fare un esempio, Giove ha una massa che è 10 volte la nostra Terra, e alcuni dei pianeti osservati sono anche più grandi di Giove, quindi è chiaro che una cosa grossa, se deve in qualche modo creare uno spostamento della stella o comunque una perturbazione al moto stellare, deve essere un oggetto grosso. Più è grosso e più si riesce a vedere la perturbazione, quindi questa è una cosa abbastanza a occhio chiara. Però ecco, si è partiti di lì, si hanno molti oggetti grandi, soprattutto molto vicini alla stella, proprio perché le velocità radiali sono molto sensibili, così come i transiti, a oggetti molto vicini alla stella. Però ecco, di lì si è partiti, ma non è che ci siano solo oggetti come pianeti giganti. Ci sono già molti, tra virgolette, Nettuni caldi, li chiamiamo, cioè quindi oggetti già più piccoli, più o meno della massa di Nettuno. E devo dire, dal 2005 a questa parte, si sono già scoperti invece pianeti, chiamiamoli rocciosi, nel senso che se uno guarda la massa, intuisce che si va già sul roccioso. Quindi direi, tra le prime superterre scoperte sono state nel 2005, chiamiamole superterre oggetti che sono più o meno da 2 volte la massa della Terra all'incirca fino a 10, una con la velocità radiale un po' più massiccia e l'altra invece con il microlensing, che è intorno alle 5 masse terrestri. Quindi diciamo le prime superterre risalgono al 2005. Poi ci sono state altre scoperte di superterre con tecniche sia del radial velocity sia del microlensing, e in particolare ad oggi il record di pianeta più piccolo ce l'ha la radial velocity, la velocità radiale, con una massa all'incirca di 2 masse terrestri, quindi quello è sicuramente roccioso, ecco. La novità della scoperta di Corot è che è il primo pianeta roccioso in transito. Perfetto, dottoressa Tinetti, adesso ci fermiamo qui per un attimo, forse l'ho fatta parlare troppo, adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torneremo in studio e poi cominceremo davvero a parlare di questa scoperta. Benissimo. Sometimes I can't help but thinking that I will rip out of my seams and my eyes eventually fall out of view. And then sometimes something starts me down the road, my brain stops thinking and I find Dottoressa Tinetti, siamo ritornati in studio e quindi, come promesso ai nostri radioascoltatori, parleremo proprio di questa scoperta, la scoperta di questo primo pianeta in transito roccioso che si chiama Corot 7b. La prima domanda della seconda parte della trasmissione è questa: come mai si chiama Corot 7b? Perché forse non è chiaro a tutti. No, chiaramente i nomi dei pianeti extrasolari sono un po' un'incognita per chi non lavora nel campo, perché normalmente si sceglie, soprattutto per le velocità radiali, quando vengono scoperti con metro le velocità radiali, si sceglie di dare il nome della stella e dopodiché si sceglie B, C, D, a seconda se uno ha scoperto il pianeta, il primo pianeta, il secondo pianeta o il terzo pianeta scoperto intorno a quella stella. Per quanto riguarda i transiti, normalmente hanno nomi invece della missione o dello strumento che li ha scoperti. Quindi in questo caso Corot è perché è appunto la missione Corot che l'ha scoperto, 7 perché è il settimo pianeta, e B perché per quel sistema particolare è il primo pianeta di quel sistema particolare. Quindi appunto, giusto per fare un esempio, se invece questo pianeta fosse stato scoperto da un'altra missione, ad esempio Ogol, si sarebbe chiamato Ogol 3C, per esempio. Questo vuol dire, in soldoni, dottoressa Tinetti, che alla fine, quando andiamo a trovare un pianeta che orbita attorno a una stella, questo pianeta potrebbe far parte di un intero sistema solare esattamente analogo al nostro sistema solare dei pianeti che orbitano attorno alla stella centrale? Assolutamente, infatti ci sono già molti sistemi stellari noti, sistemi planetari noti intorno alle altre stelle. Senta, dottoressa, stavo guardando proprio in questo momento il grafico riportato proprio su Astronomy Astrophysics e si vede una cosa classica per coloro che si interessano di pianeti extrasolari, cioè si vede il cosiddetto calo di luminosità, che sarebbe quando il pianeta passa davanti alla stella, il cosiddetto metodo del transito. Ma effettivamente questo calo di luminosità come si chiama in astronomia? Ma dunque, tecnicamente uno parla, poi ci sono vari parametri che uno guarda durante il transito, però il calo di luminosità tipicamente dà quello che si chiama profondità del transito, e la profondità del transito, che poi vuol dire quanta luce è scomparsa dalla stella al passaggio del pianeta, uno questo immediatamente può legarlo al raggio planetario. Perché questo? Perché tanto più è grande la superficie stellare che è stata coperta, tanto più è grande il pianeta, e normalmente questo occultamento è proporzionale alla superficie planetaria diviso la superficie stellare. Quindi immediatamente uno, se conosce più o meno il raggio stellare, riesce a dedurre il raggio planetario. La cito un attimo, dottoressa. Lei ha appena detto che nel 2005 sono state trovate delle superterre e poi adesso nel 2009, lo stiamo analizzando in tutta la puntata, è stato trovato questo pianeta roccioso col metodo del transito. Però questo pianeta roccioso è stato trovato fondamentalmente da Corot, da questo satellite. E allora, Corot, che particolarità ha per andare a trovare e scovare pianeti piccoli di taglia terrestre? Ma dunque, le faccio un po' di numeri, le faccio un po' di numerologia. Perfetto. Ad oggi da Terra, per i transiti, si riesce molto facilmente, quando dico molto facilmente vuol dire i miei studenti con linee di Londra, con un telescopietto di 35 centimetri, a vedere un calo di luminosità stellare dell'1%, cioè quindi un pianeta che come superficie ricopre 1% della superficie stellare. Nel momento in cui invece, e questo vuol dire più o meno a grandi linee, un pianeta gioviano che passa di fronte a una stella come il nostro Sole. Però capite bene che se la stella, invece di essere grande come il Sole, è più piccola, ce ne sono molte così, allora uno può andare a vedere anche in realtà pianeti più piccoli, perché è semplicemente il rapporto tra le due superfici. Se uno però invece vuole andare un po' oltre questo 1%, vedere delle superfici ancora più piccole rispetto alla superficie stellare, allora bisogna oggi andare da spazio. E da spazio ecco che sono stati lanciati i satelliti Corot per l'Europa nel 2006 e nel 2009 è stato lanciato Kepler per gli Stati Uniti. Quindi tutti e due, Kepler e Corot, essendo da spazio, quindi non avendo l'atmosfera terrestre, non avendo tutte altre limitazioni che uno ha da terra, possono in effetti vedere oggetti molto più piccoli dell'1%, quindi si può tipicamente nel caso di Corot trovare superterre in transito, nel caso di Kepler lo strumento è stato pianificato per fare delle terre in transito, quindi proprio una massa terrestre, non più di una massa terrestre. Dottoressa, forse è ancora presto per parlarne, ma dalle notizie che lei ha, è stata trovata anche la composizione di questo pianeta, quindi da che cosa è composto, come è fatto? So che peraltro lei si interessa proprio di questi campi. Ma sì, io mi occupo soprattutto di atmosfere degli esopianeti, però quindi con il transito si possono già rilevare atmosfere, però direi per pianeti più grandi di questo di Corot, comunque questo di Corot va un po' al limite per riuscire a capire con gli strumenti di oggi che cosa accade nella loro atmosfera. Direi che è un po' più un oggetto da studiare nella nuova generazione di telescopi che arriveranno per le atmosfere, però nel frattempo può già dire molte cose, perché misurando il raggio planetario con questo metodo, e siccome la notizia era la conferma di questo pianeta in transito con le velocità radiali, quindi è stato quindi rilevato da due metodi, le velocità radiali ne hanno dato la massa, quindi se uno conosce con una certa precisione la massa e il raggio, conosce la densità interna del pianeta, e di lì uno può già un pochino capire di che cosa si tratta. Quindi se ad esempio la densità è molto bassa, ovviamente non è questo il caso, si tratta di un pianeta gigante. Quando ci sono questi Nettuni caldi, la densità è un po' quella di Nettuno, quindi un misto di ghiaccio, di idrogeno. Nei momenti in cui si toccano invece masse così piccole, intorno alle 5 masse terrestri, ovviamente sono pianeti solidi a tutti gli effetti, e vedendo un po' il raggio e la massa di Corot 7, uno guardando un po' i diagrammi di fase, raggio-massa, capisce che molto probabilmente questo pianeta è un po' un pianeta un po' come la Terra, cioè fatto un po' di silicati. L'altra possibilità potrebbe essere stata che appunto parte di questo pianeta contenesse, un po' come accade ai satelliti di Giove e Saturno, anche una grande quantità di ghiaccio, e quando è così la densità è minore. Dottoressa, le voglio fare un'ultima domanda prima di concludere la trasmissione. La prima volta che ho scaricato questo paper da Astronomy Astrophysics, quindi che ho avuto il mio PDF sul mio computer, sono zompettato direttamente sulla sedia perché ho visto il primo nome del paper, che è il signor Didier Queloz. Ora, Didier Queloz è un ricercatore molto noto nel campo degli esopianeti. Chi è Didier Queloz? I primi scopritori del primo pianeta extrasolare sono Major e Queloz dell'osservatorio di Ginevra, e devo dire che hanno fatto un'ottima scoperta nel 95, ma continuano, non è che si sono fermati. E vorrei aggiungere che infatti Major è il primo autore, perché ovviamente queste scoperte così grosse molto spesso hanno molti autori negli articoli, giustamente. Ma la scoperta del pianeta nel 2009 con le velocità radiali di due masse terrestri, quindi più piccole in assoluto che conosciamo, ha come primo autore Major. E questo, che invece è il primo pianeta di tipo terrestre in transito, quindi intorno a 5 masse terrestri ma in transito, è Queloz. Quindi direi che entrambi, Major e Queloz, stanno continuando a fare delle cose molto molto belle. Dottoressa Tinetti, la ringrazio per la pazienza e per aver partecipato a Caccia Fotone. Saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Caccia Fotone e di Radio Città Fugico. L'appuntamento è sabato prossimo, come al solito, stessa ora, stessa radio e stesso fotone. E vi lascio con l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie, dottoressa Tinetti. Grazie a voi, arrivederci.